This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti, This Is Not an Exit, siamo partiti in quinta, non in quarta questa sera, 21.06 minuti primi, 9 marzo 2017, siete in diretta, su Radio Star del Capo. Che bel sottofondo epico, questo mi piace. Ci voleva, data la trasmissione di questa sera, dedicata agli Impaled Nazarene. Però diamo il benvenuto, siamo studi pieni, al dottor Corrias, al dottor Scarpa, al dottor Cortesi qua con noi. Bella. Ciao. Ciao. Come stiamo questa sera? Stiamo parlando di un gruppo, come dire, easy listening. Sì, Impaled Nazarene, chi non li conosce, cioè soprattutto in soprattutto. Italia. mi piace l'idea di vedere un gruppo che tutti quanti all'inizio li hanno sempre presi molto sul serio, invece loro a oggi continuano a pigliare per i fondelli tutto e tutti. Loro non si sono mai presi sul serio. E questo è importante, gran lezione di vita, ecco. We'll be right back. Ok, dovremmo esserci per una serata così importante. Abbiamo pensato di chiamare anche un vero e proprio esperto, direttamente da Metaskunk, che è un blog che potete trovare comodamente su internet, ma con un passato anche su Metashock, assieme al nostro dottor Cortesi. Ci sei? Sì, ciao a tutti. Ciao. Allora, posso chiamarla dottor Russo? Come preferisce. Qua siamo tutti dottori. Allora, dottor Russo, cosa ci può dire di questi Impaled Nazarene? Il nostro valente dottor Cortesi ci ha parlato molto di lei e delle interviste fatte con gli Impaled Nazarene ai tempi di Metal Shock, direi, perché gli Impaled Nazarene sono in giro da 25 anni di più, 26. Esattamente 25 anni, perché il primo disco del 1992, Tol Corrompt North North North, che vuol dire sarete tutti segnati dal 666, in realtà era uscito prima un EP per un'etichetta italiana, Atmosfera 2 Records, che tutti ricorderanno per il famoso Made Order, che però a quanto pare li fregò, e di questa cosa poi si lamenteranno in praticamente molte interviste con magazine italiani. Intervistai Mika Luttinen, il cantante, e adesso ultimo membro originale rimasto, due volte, era il periodo diciamo di Proparvia Finlandia, quindi parliamo di circa 15 anni fa, è una cosa che lui ci teneva spesso a ribadire, era proprio quello che avete detto voi, che comunque gli Impaled Nazarene sono un gruppo assolutamente ironico, che anche se all'inizio era difficile da leggerla in questo modo, erano partiti in qualche modo facendo quasi una parodia punk di quelli che erano i stilemi del black metal norvegese, che invece si prendeva estremamente sul serio. Beh, era difficile anche perché sono finlandesi, non l'abbiamo ancora detto bene. Assolutamente, sono finlandesi e quindi... E cantavano in finlandese anche. Anche. Quindi sì, non era facile inquadrarli, venivano dal nord, c'era, lo ricordiamo, 92, grande ondata black metal, eravamo nel pieno. Sì, sì, erano usciti tutti i più grandi dischi dei colossi norvegesi come Emperor, Slade, Burzum e così via, che erano tutti più o meno all'esordio del secondo disco. Era un periodo assolutamente d'oro per il black metal, nel quale i Impaled Nazarene si inseriscono come una scheggia impazzita. Ma ti sei mai chiesto, una domanda proprio generica, a parte gli Impaled Nazarene, ma ti sei mai chiesto perché in quel periodo storico, in quel periodo il black metal, ma non solo, ma anche il death, ebbe una così tanta fortuna? Ovunque, fu un linguaggio che si sparpagliò in tutto il mondo molto molto rapidamente. Loro, ho visto i loro vecchi tour, gli Impaled Nazarene girarono tutto il mondo nel giro di pochi anni. Perché comunque si stava concludendo il periodo che finisce diciamo nei primi anni 90, nel quale l'heavy metal si evolve per continua estremizzazione, poi da metà degli anni 90 in poi si evolverà per contaminazione, quindi si era partiti con il thrash, poi con il death che aveva alzato ulteriormente il livello, e poi si arriva al black metal. All'epoca chi aveva come noi 14 o 15 anni non poteva non farsi attrarre da questo genere, proprio perché il gioco era all'essere più estremi, cattivi e satanici possibile da questo punto di vista. Io mi vedo molto ragazzino in quel periodo lì ed era veramente così, c'era incredibile sta cosa, però sì. Sì, poi ovviamente chiaramente il motivo principale per cui c'era stato questo boom era perché erano nati un sacco di gruppi fantastici che avevano pubblicato dei dischi incommensurabili, però comunque la direzione che aveva preso l'heavy metal in tutti gli anni 80 era andare verso una sempre maggiore estremizzazione. Il black metal a un certo punto di vista è stato il punto di non ritorno. A un certo punto di vista gli omicidi norvegesi dell'Inner Circle sono stati un po' come gli omicidi della famiglia Manson che fa finire la Summer of Love e segna la fine di un'epoca. Da un certo punto di vista è la stessa cosa per il black metal. Certi livelli di estremismo concettuale e culturale ancora più che sonoro non verranno poi replicati. Il black metal è l'ultimo momento in cui il heavy metal è una cosa veramente pericolosa. Ok, adesso mettiamo altri tre brani, ma tanto sono brevi, e poi ci risentiamo. Assolutamente. Buon ascolto. We'll be right back. 21 e 21 minuti primi, siete sempre in compagnia di This Is Not An Exit, avete sentito gli Impaled Nazarene. Siamo ancora in compagnia anche di Francesco Russo, studio pienissimo, in più collegamento telefonica, quindi direi puntatone. Gentili ascoltatori, se volete in qualche modo interagire, ricordo 348-7649-289, abbiamo i nostri emulatori di WhatsApp, mandateci qualche WhatsApp se avete qualcosa da dirci, di consigliarci, qualche pezzo, qualche richiesta, altrimenti andiamo avanti con Francesco e gli facciamo qualche altra domanda, gli facciamo raccontare qualcosa dalle sue interviste magari. Che ne dici, Francesco? Perché no? Intanto diciamo che questi due pezzi erano Goat Perversion e Satanic Metal Horse, o comunque sempre dai primissimi i lavori. E all'inizio erano molto più minimalisti, già dal secondo Ugra Karma comunque ci saranno arrangiamenti più raffinati, più melodie. I primi Impaled Nazarene cercavano di tirare fuori il disco più estremo possibile e basta, però già qua si sentono delle influenze industrial e punk che non facevano assolutamente parte del black metal norvegese e svedese. E laddove comunque la filosofia di base del black metal norvegese è quella identitaria del recupero o delle radici pagane, invece di Impaled Nazarene non c'è tutto questo, c'è un modo di essere malati e nichilisti che è tipicamente finlandese, quindi si sente che sono finlandesi, però da un certo punto di vista la provenienza non è così importante come per altri i gruppi, proprio perché avevano questo genere di influenza. Infatti Mikael Utinen, il cantante dell'epoca, aveva anche un progetto o industrial chiamato Raism. Questi tra poco li mettiamo su. Ma cosa vuol dire essere malati, malati nichilisti alla finlandese? Non è una ricetta? È un concetto assolutamente complicato da spiegare, ma che se si ascoltano molti gruppi finlandesi diventa facilmente comprensibile. C'è il collega Trainspotting, sempre di Metal Skank ed Ex Metal Shock, che sostiene che i gruppi finlandesi abbiano tutti un qualcosa di riconoscibile a prescindere dal genere che facciano, e questo è assolutamente vero, perché comunque se tu ti ascolti in Impaled Nazarene piuttosto che i Stratovarius, piuttosto che i Berit, o piuttosto che i Shape of Despair, c'è sempre un senso di desolazione e di buio che comunque distingue i gruppi finlandesi da quelli svedesi. Ma anche come suoni, solari, scusami, ma anche come suono, perché comunque il suono, tipo a me vengono in mente subito Rotten Sound, anche loro finlandesi, un suono che è accostabile, nonostante i generi siano completamente diversi. Perché comunque anche i Impaled Nazarene hanno una vena grind estremamente forte ed estremamente presente, ed è esattamente quello che si sente nel primo disco. Nel secondo ci sarà una cover di Extreme Noise Terror, quindi le loro influenze erano queste, molto più ebatoli, diciamo. Sì, molto sì, seminali. Beh, allora noi continuiamo con gli Impaled Nazarene, però. Assolutamente. We'll be right back. Qua abbiamo già sentito un'evoluzione. Il penultimo pezzo che abbiamo sentito è The Horny and the Horned, da secondo Ultra Karma, che suonano ancora sempre dal vivo, visti peraltro al Netherlands Fest 4 giorni fa. All'epoca c'erano due anime nel gruppo, quella un po' più i due fratelli punk, di Mika Luttinen, e quella più melodica del fratello Kimmo Luttinen, e infatti durerà un altro disco e poi se ne andrà. Uno dei pochi gruppi, uno dei pochi gruppi che conosco che hanno deciso di fare un'inversione a U. Stavano diventando un po' più, tra virgolette, melodici, poi hanno appunto mandato via il fratello perché era troppo buono, si può dire, e poi, sì, esatto. E poi sono tornati sui binari del primo disco, più o meno. Sì, perché comunque diciamo, la vulgata vuole che il fratello se ne fosse andato perché aveva litigato con il bassista, che all'epoca era Tanli Jarva dei Sentenced, che poi durerà ancora pure lui poco, dopo le Tech Cult se ne andrà pure lui. E però in realtà erano i due fratelli che avevano una visione completamente diversa di quello che volevano fare. Comunque Mika Luttinen fondamentalmente è un punk, cerca di andare sempre sul più oltraggioso possibile, mentre invece il fratello ha un'idea di musica totalmente diversa. Infatti dopo formerà Tali Legenda, che erano un gruppo di death black estremamente melodico, era quello che evidentemente voleva fare lui, e che comunque emerge in un paio di pezzi, direi, di suo Michael Amper, che era il disco successivo. Infatti Mika Luttinen nelle interviste successive, dopo aver rotto con il fratello, dirà che quel disco gli faceva schifo. Ma prima abbiamo detto che il metal in questi anni ebbe una diffusione mondiale, però poi dobbiamo anche spiegare come, perché non c'era internet e ci si passava le cassettine, si faceva tape trading, anche tu immagino. Sì, peraltro io e Matteo ci siamo conosciuti tramite tape trading, ancora prima di conoscerci veramente, quando siamo entrambi su Metal Shock. Noi facevamo entrambi tape trading, ricordo di scambiare un paio di cassette, penso i Naked City per i Malevolent Creation o qualcosa di simile. Esatto, comunque io ti passai i Naked City e tu in Cold Blood dei Malevolent Creation, me lo ricordo ancora. Esatto, comunque funzionava che tu avevi una serie di contatti in tutta Italia con cui ti scambiavi le registrazioni, ti scambiavano le liste, ovviamente tutto questo per posta. E poi si facevano gli scambi di registrazioni, che ovviamente all'epoca potevano avere delle qualità assolutamente terrificanti, perché no, è abbastanza divertente che adesso c'è tutta la polemica dell'MP3 che è compresso, che non si sente bene, come mettere il vinile. Noi alla fine, e molti dischi con cui siamo cresciuti, li abbiamo sentiti con un suono di merda per via del tape trading. Esattamente, qualità infima, qualità primo disco dei Discharge. Sì, infatti ricordo che c'era, per esempio, la mia cassettina di The Legacy, che era veramente, sembrava registrata con lo stereo giocattolo, con dei bassi rimbombanti, non si capiva veramente un cazzo, però io per 5-6 anni mi sono sentito allegarti così, perché comunque quando avevi 16 anni e quindi non molti soldi, ti compravi le cose che non avevi mai sentito. Se tu le Legacy ce l'avevi già in cassetta, per quanto fosse fondamentale, tanto che comprare qualcosa che non avevi, oppure ti mettevi d'accordo con gli amici, tu compravi questo disco, io quest'altro, e poi ci si registrava a vicenda. Questo era un altro escamotage, infatti. Sì, ma passarselo tra amici a distanza di Rione va bene, ma passarlo dalla Finlandia alla Sardegna non era così, come dire, scontato. Immediato. E poi c'erano pure i film. Non so se qualcuno di voi abbia mai fatto scambi di VHS. Assolutamente. Ma allora io ricordo uno dei più grandi così distributori di robe, che ai tempi, quando ancora Lucio Fulci se lo cagavano veramente in pochi, poi alla fine ha avuto le lucide arrivate, c'era un certo Giulio Baldizzone che così, cioè, distribuiva in lungo e in largo film a tutt'andare, oltre che dischi, ma questa è un'altra storia. Quindi c'è sempre stato questo movimento, ma ancora adesso comunque vedo in giro alcuni banchetti dove ci sono sia dischi che VHS doppiate, cioè ancora sono sempre in cosa, soprattutto per oltre all'horror molto molto moltissimo trash, ecco, questo sì. Beh, insomma, noi se Lucio Fulci è stato recuperato di recente, noi aspettiamo che, come dire, il mainstream recuperi il black metal o quantomeno, che ne so, gli Impaled Nazarene. Ah, in realtà ormai il mainstream si è appropriato del black metal più che di qualsiasi di altro genere, perché comunque proprio perché il black metal si prendeva così sul serio, comunque è diventato un fenomeno culturale con un impatto molto più vasto di qualsiasi altro genere heavy metal, quindi c'è stata tutta l'attenzione del pubblico hardcore, soprattutto del pubblico indie per il black metal, che ha anche iniziato un po' a cambiare il genere dall'interno. Pensiamo a roba che c'è adesso come i The Heaven, che veramente gente con estrazione indie che poi è arrivata al black metal per le traverse e ha dovuto per interpretare il black metal. Però Francesco, per Nazarene invece restano un gruppo non suscettibile di intellettualizzazioni, perché puntano solo a essere il più provocatori possibile, anche toccando livelli volutamente grotteschi, perché c'è una componente di umorismo sardonico e nerissimo di Nazarene, che è l'essenza più profonda del gruppo. Però Francesco, ti volevo chiedere un'altra robina, cioè praticamente alla fine gli Impaled Nazarene sono stati coloro che hanno preso, secondo me, ma non solo secondo me, lo scettro che avevano prima i Venom, cioè già si iniziavano, i Venom alla fine hanno messo delle basi serie per quanto concerne tutto quello che è venuto dopo. Però ovviamente prendendo sonoramente per i fondelli tutti quanti, cioè prendendo tutto quanto con molta, moltissima ironia. Stessa roba poi penso abbiano fatto, anzi sicuramente hanno fatto gli Impaled Nazarene. Infatti io ogni volta rido in maniera esagerata, perché effettivamente sentire un disco loro è sì divertente, però mi rendo conto tutta la gente che ai tempi li stava dietro, che prendeva le robe talmente serie, e loro penso se la ridessero sbronzi marci, perché era normale questo per loro, cioè, quindi cioè, gran storia. E molti comunque hanno frainteso, ma anche a livello politico penso, perché ancora adesso molti li tacciano di fascisti, nazisti o chi più ne ha più ne mette, insomma, cioè, ma loro penso che ne è sempre fregato a meno di zero di tutto il discorso politico. Oh, tu come la vedi, Francesco? Vabbè, in realtà Mika Luttinen aveva un nonno che era stato ucciso dai nazisti durante l'occupazione della Finlandia, quindi è molto difficile che abbia simpatie politiche di quel genere. Anche qua si ritorna al punk. Comunque i riferimenti al nazismo che ci sono per esempio in Nuclear Karma sono talmente grotteschi, proprio come in un film di Lucio Fulci tipo Sodom and Ghost, e comunque hanno lo stesso valore delle svastiche di Sid Vicious. Semplicemente, che cosa fa incazzare la gente di più? Riferimenti al nazismo o alla pornografia estrema e così via. questi sono i Rhyme di cui parlavamo prima, il progetto di Mika Luttinen e Magus Vampir Daolot dei Necromantia, se non ricordo male, giusto? Assolutamente, Magus Vampir Daolot era stato per un certo periodo la figura centrale della scena black metal greca, che era stata quella che per ispirazione e picchi creativi era seconda solo a quella norvegese. E con Mika Luttinen aveva anche un secondo gruppo, giusto? Sì, comunque avevano fatto prima i Diabolos Rising, che era uscito all'epoca per la Unisound, che era la casa discografica di Necromantia e di tanti altri dei gruppi greci, e poi nascono i Rhyme, che sono un progetto più, diciamo, a quattro mani, dove Diabolos Rising era più il progetto di Daolot con Luttinen protagonista, e fanno due dischi per l'Osmose, che era la casa discografica che all'epoca pubblicava anche i Felnezarin, e pubblica ancora, e diede lo sfogo a la loro passione per l'industrial più malato. È un misto no, anche tra, con la techno che andava a quei tempi, no? E anche un po' di roba più commerciale da discoteca romagnola brutta. Beh, sembrano anche gli Atari Teenage Riot, però questo, il fatto che siano per metà greci mi piace, perché serve a sfatare il classico luogo comune che il black metal sia una cosa da alienati, appunto, da buio scandinavo. Non è così, il verbo black metal si è poi sparpagliato veramente ovunque, un sacco di gruppi originali un po' in tutto il mondo, dal Cile, non lo so, ma addirittura pure dagli Stati Uniti, che c'entrano veramente ben poco, però alla fine è stato esportato in lungo e largo. Poi ovviamente il discorso greco è completamente, per certi versi, anche opposto a quello nordico, quindi un modo di intendere totalmente diverso, ecco, questo comunque va detto, va sottolineato. Sì, perché comunque il punto centrale del black metal era il legame con la propria identità culturale, quindi da questo punto di vista gli americani non sono riusciti a reinterpretarlo. Gli americani fanno delle copie senza anima di quello che hanno fatto gli europei, per quanto poi esistano chiaramente dei gruppi che possano piacere, come il Sastur, o il fenomeno cosiddetto cascadico, per cui sono usciti enormi. Sì, però appunto i greci avevano interpretato il black metal in una maniera totalmente loro, totalmente personale, dove le sonorità non sono gelide ma sono estremamente calde e soffocanti. Peraltro dei gruppi storici, adesso i Necromantia si sono sciolti, Varatron fanno poco, sono rimasti solo i Rotting Christ, però comunque, anche se adesso è un po' passato sotto il radar, la Grecia è ancora un background black metal estremamente folto, con ottimi gruppi, tipo possiamo citare i Kavir o gli Acherontas e così via. Ma pensi sia legato in qualche modo anche alla situazione socio-economica che stanno vivendo in questi ultimi 10 anni? Questa è una cosa che mi sono chiesto spesso, perché comunque la Grecia è il paese europeo che ha subito la crisi sociale più pesante degli ultimi anni, quindi loro comunque hanno buoni motivi per essere incazzati e restare incazzati, e che questo porti ad avere una scena di metal ancora numericamente estremamente folta anche comparata alla popolazione, credo che ci sia sicuramente un legame. Beh, noi per ora proseguiamo però con i nostri finnici. Fly! una puntatina per palati fini, questa di This is not an exit del 9 marzo, ma altre volte invece abbiamo fatto anche puntate più tranquille, dai, concedetecelo. Questo lo diciamo per gli ascoltatori occasionali. Chi invece si ascolta esclusivamente per sentire gli Impaled Nazarene, beh, questa sera ha trovato pane per i suoi denti. Questi erano tutti pezzi presi da Suomi Finland Perkele, un disco non amato particolarmente da Mika Luttinen, no? E mi ricordo che interviste dell'epoca in cui ne parlava lui stesso malissimo, ma non ricordo di preciso chi fosse stato all'interno dello stesso gruppo ad aver messo in giro le voci che Mika Luttinen fosse malato, fosse sieropositivo, malato di AIDS e intento in una missione suicida che stava portando a termine con successo. Tu te lo ricordi, Francesco? Sì, questa era una celebre intervista a Metal Shock di Taneli Jarva, che all'epoca era ancora il bassista di Internazarin, era appena uscito Latex Cult, che era il primo disco senza il fratello Kimmo Luttinen, quindi un disco estremamente violento e motorediano. La canzone che abbiamo sentito prima, l'ultima, Ghetto Blaster, un classicone, è comunque il pezzo nel quale viene fuori la vena a Motorhead e punk hardcore che poi dominerà il gruppo sempre, anche nei momenti più melodici, tipo quando arriverà Alexi Laio. Quindi in sostanza ha fatto un'intervista dove diceva che il cantante aveva l'AIDS, si è imbarcato in una missione suicida e così via, e poi verrà cacciato dopo quel disco tra Neil Yarv, si sentenze, e poi in tutte le interviste con i magazine italiani, smentì di essere affetto dall'AIDS. Ci saranno anche strascichi legali, ci sono stati anche strascichi legali, se non ricordo male. Questo non me lo ricordo, però comunque un'altra rivista, mi pare Grind Zone, Mika Luttinen disse che smentì categoricamente quando ho scritto da Metal Shock, cioè che lui fosse malato di AIDS, in realtà era una cosa che aveva detto Taneli Jarva. Anche perché poi è ancora vivo. Era stato totalmente ubriaco in quel momento, l'intervista fatta sul bus, cioè comunque Taneli Jarva già alle 5 del pomeriggio sarà stato alla seconda boccia di vodka, quindi poi giustamente ti annoia a fare le interviste, dire sempre le stesse cazzate, sempre le stesse domande, quindi perché non inventarsi che cantate l'AIDS? Ma cos'era fare interviste negli anni 90 a gruppi come gli Impaled Nazarene? C'era da divertirsi forse? O forse no, dipende come ne hanno presi loro. Ah guarda, io purtroppo essendo uno dei miei gruppi preferiti, quando li ho intervistati facevo sempre domande dettagliatissime su quel testo piuttosto su quel pezzo e così via, quindi alla fine Mika Luttinen gli aveva sempre risposte piuttosto pacate e normali, però comunque era famoso per fare delle interviste veramente pesanti e divertenti con persone che invece si prendevano sul serio, chiedevano se fosse veramente nazista, fosse veramente a favore della guerra nucleare, e giustamente rispondeva a tono. Il nuclear meta. Infatti, questo era proprio il genere. Una ragazza, non mi ricordo quale rivista, che lo intervistò, e lui si mise a parlare di sadomasochismo e a proporle una strangolatina. Mica lui la guerra. È un grande. Un Duca Conte, insomma. Assolutamente. Adesso lo sentiamo, problemi tecnici a parte, siete sempre su This is not an exit, questa è Radio Città del Capo, e questi sono gli Impaled Nazarene. Chissà che non sia la loro aurea, come dire, un po' demoniaca, ma in realtà è falsamente demoniaca, dico bene? Questo è un disco nato male, diciamo. Il disco si chiama Latex Cult e poco dopo l'uscita verranno fregati alla grande dal regista di videoclip che poi non verranno mai realizzati completamente, se non ricordo male, e l'autore della copertina, tale David Palser, che fuggì non si sa dove con i soldi già incassati per video e copertina, aveva fregato altri gruppi, adesso non ricordo i nomi, ma si rese irreperibile dopo aver razziato i soldi agli Impaled Nazarene e anche ad altri gruppi, giusto Francesco? Sì, anche questa è una cosa che va inquadrata in un'epoca senza internet. Adesso se qualcuno fa qualcosa del genere viene sputtanato in 10 secondi su qualsiasi rete e quindi nessuno lo contatterà più. All'epoca per sgamare una persona del genere ci voleva molto più tempo e molte più testimonianze incrociate, quindi certi soggetti che comunque erano attivi nella scena se la cavavano per molto più tempo. Infatti questo David Palser io è un nome che ricordo e la fece franca per qualche anno, se non ricordo male. Cioè, era un nome che stava sulle mappe. E tra l'altro la copertina di Latex Cult, opera sua, è comunque molto bella. Non si può dire che fosse un incapace, no? Io me lo immagino bene, gli Impaled Nazarene in Heavy Rotation con le Spice Girls. Più o meno il periodo era quello, immagino. Sì, più o meno sì. Ma non penso andassero in Heavy Rotation. Beh, l'anno in cui uscì Latex Cult è il 1996, però Latex Cult uscì nella primavera del 96, mentre il disco delle Spice Girls nell'autunno del 96, se non ricordo male. Beh, più o meno ci siamo, dai, l'ho quasi azzeccata. Sì, il disco... O dove l'ultimo, nel senso che il fratello sfoga totalmente la vena Motorhead di cui parliamo prima, che era già presente in un paio di pezzi di Sono Kindle Perkle come Let's Fucking Die, e soprattutto l'immaginario si fa sempre meno mistico di Sono Kindle Perkle, c'erano ancora dei pezzi che concettualmente erano black metal classico, invece Cult non c'è più assolutamente black metal classico. Il singolo si chiamava Motor Penis, è bellissimo. Uscì anche come singolo con dei pezzi brevissimi, estremamente hardcore, intitolati Alcohol o Horror. Esatto, 5 pezzi per o 4 pezzi per 9 minuti di durata, me lo ricordo bene, e lo vendevano come a un prezzo intero in quegli anni. Comunque Michele Utini all'epoca era fissatissimo con il craft, il punk e l'hardcore, tanto che aveva anche un progetto demenziale chiamato The Rocking Dildos, che pubblicò 2 dischi dove c'erano titoli come Hangover Wank, cioè Sega in dopo sbronza, o Pregnant Woman Must Die, le donne incinte devono morire. Ci siamo, ce l'abbiamo, stiamo per metterlo su. Allora sentiamoci. Thank you. E li abbiamo appena ascoltati, questi erano per l'appunto i Rocking Dildos. Praticamente i Motorhead con Lemmy con la raucedine, a modo suo. Esatto, e ancora più sparati. Ancora più sparati, sì, ancora più con della benzedrina più buona. Tra l'altro questo, esatto, se non ricordo male, fu uno degli ultimi dischi della Osmose vecchia maniera, come la conoscevamo noi, cioè dischi iperveloci, ignorantissimi. Un attimo, perché il noi è un po' troppo ristretto in questo caso. Cosa vuol dire Osmose? L'Osmose era la casa discografica che a metà anni 90 rappresentava il lato più ignorante, volutamente eccessivo del metal estremo. Era una casa discografica che aveva iniziato pubblicando i dischi di alcuni dei più grandi colossi del black metal, come gli Immortal, i Rotting Christ, o i Marduk, o anche gli stessi i Dark Tranquilli. C'era una casa discografica con un filtro incredibile, ma con una professionalità magari non sopraffina. Esatto, diciamo che comunque era nota per non pagare i gruppi che metteva sotto contratto. Non solo, c'era anche il fatto che comunque i dischi, i titoli erano pieni di refusi, oppure non c'era la track list giusta. Per esempio io ho la versione originale di The Mighty Contract di Rotten Christ, che è uscita su Osmose, ci sono tre track list diverse, una nel libretto, una stampata sul disco e una dietro al disco, dove ci sono solo 5 titoli su 8. Beh, insomma, questa era Osmose. Era il momento buono, diciamo che gli altri anni non sarebbero andati così in là. Anche se però poi il disco che stiamo per ascoltare fosse l'ultimo sussulto di vita, diciamo l'ultimo prodotto veramente professionale della Osmose, è Rapture degli Impaled Nazarene, che uscì parallelamente a un altro disco incredibilmente professionale per gli standard dell'etichetta, che era Nightwing dei Marduk, giusto? Sì. Beh, ma tanto poi ve li passavate con le cassettine, cosa cambiava? Sì, effettivamente avrebbe fatto poca differenza comunque. Tra una playlist sbagliata e una playlist magari tradotta dal finlandese, riscritta dal finlandese, a Biro. Qualsiasi disco sembrava un disco dei Motorhead ancora più grezzo. No? Vale tutto. Bellissimo. Adesso però ci ascoltiamo. We'll be right back. i pezzi che abbiamo ascoltato uno di seguito all'altro sono, diciamo, i singoli di Rapture, giusto Francesco? Sì, anche se qua era difficilissimo scegliere un pezzo perché sono tutti fantastici. Questo per me è il capolavoro assoluto di Fred Nazarim. Anche per me, questi due pezzi in particolare sono per me i più facilmente memorizzabili. Hanno dei ritornelli che potresti ricordarti a memoria già dopo pochi ascolti. Poi sul contenuto dei testi si potrebbe discutere, ma beep, intanto sono molto orecchiabili, ecco, mettiamola così. Il beep è censura, perché, come dire, la censura in musica non è del tutto scomparsa, o l'autocensura soprattutto. Beh, in Pernesari non ho mai avuto questo problema, in questo... Il disco si parla di cristiani stuprati da leoni al Colosseo, si parla di capre, di maschere antigas. Sì, oppure del retto degli angeli. Per retto intendo intestino, no? È un pezzo che... Sì. Quello in realtà è tutto un filone, perché comunque in Pernesarin hanno tutta una serie di canzoni che parlano di stuprare gli angeli, hanno fatto credo 6 o 7. Anche nel penultimo Road to the Octagon. Poi una grande predilezione per le capre. Sì, è sì, comunque loro hanno dato un grandissimo contributo a rendere la capra l'animale iconico dell'heavy metal. A un certo punto nelle interviste avevano affermato di definire il loro genere goatly metal, perché comunque infilavano la capra dappertutto, così come la maschera antigas e la guerra nucleare. Infatti, infatti il loro simbolo attuale è una capra con la che mettiamo, un accostamento stupendo. Altro che la capra, il caprone come simbolo del demonio. È anche il, proprio come era nominato, come loro stessi avevano definito il loro genere nei primi anni 90, loro dicevano di suonare nuclear metal. Ma sì, me... la guerra nucleare è un altro tema che ricorre spessissimo nei loro testi. Ma in realtà probabilmente erano l'equivalente di Elio e Storie Tese, solo che invece di essere nati a Milano erano nati in Finlandia. Beh sì, purtroppo non tutti li hanno visti così, ma anche perché comunque ora va detto che dopo gli Infernesarin c'è una grande ironia, ma non vanno visti come un gruppo demenziale, nel senso che comunque il cantante di Salutti è il classico finlandese che sta male, una persona che ha un grande senso dell'umorismo, ma che adesso disse comunque... Prova odio, risentimento e misantropia nei confronti del resto dell'umanità. Dici che sia una cosa classica dei finlandesi? No, beh, appunto il black metal si è sparso nel mondo, però probabilmente se è nato lì un motivo ci sarà, non dico di no, non l'ho mai capito. Il black metal ognuno l'ha interpretato a modo suo. Sì, infatti, anche perché poi tra un gruppo e l'altro ci cambiava, ci spaziava parecchio, io non sono certo un esperto, ma... Appunto, ricordo i miei amici che compravano Grindzone e a tratti sembrava, come dire, cronaca nera o cronaca vera. Sì, già all'epoca c'erano dei gruppi che comunque giocavano su tutta la faccenda e facevano interviste dove cazzeggiavano, soprattutto se magari capitava un intervistatore che prendeva troppo sul serio le questioni. Posso che c'erano persone che si prendevano estremamente sul serio, però per esempio c'era anche gente come i Mork Grinding che sostenevano di essere dei carichietti che venivano stuprati dal parroco tutte le domeniche e così via. Oppure c'erano le meravigliose interviste ai gruppi australiani tipo i Blessed Warlast che parlavano solo di prostituzione, alcolismo e così via. Sì, quello poi tra l'altro è un altro filone, Francesco, quello, cioè, quello australiano, mamma mia, cioè, grandioso. Un'altra puntata di This is not an accident. Magari faremo una puntata solo sui Sadistic Execution. Sì, o Destroyer 66. Esatto. Beh, però possiamo salutarlo, che dite? Sì, ci salutiamo con il pezzo più strano anche da Rapture, che è l'ultimo, Fallus Maleficarum, un pezzo praticamente epic metal. Sì, la loro vena melodica, che poi in dischi successivi come Absence of War, che per me è l'ultimo disco veramente bello, comunque tirano ancora più fuori, perché poi prenderanno un nuovo bassista molto medeniano. Tanto va ricordato che nel disco successivo arriverà Alex Laio, addirittura decide un poco, anche se durerà solo quel disco, esatto. La ricorderà come un tempo del cazzo. Anche qui liriche di Mogol. We'll be right back. Beh, siamo ai saluti, 22-27 minuti primi, ricordo Metal Skunk, dico bene Francesco? Sì, ciao. Per chi volesse approfondire, direi, e leggersi un po' di cose. Beh, buonanotte a tutti i nostri ascoltatori di This Is Not An Exit, rimanete in ascolto di Radio Città del Capo. Buonanotte dottor Corrias, buonanotte dottor Cortesi, buonanotte dottor Scarpa, insomma ci risentiamo tutti. Ciao, buonanotte. A giovedì. Buonanotte. Finito l'appello. Ciao Francesco, grazie. Ciao. Buonanotte. Pop up the volume.